Roma Trastevere, 21 gennaio 1970. Care Eleuterio, la casa che mi vide con le piccole dita sulla tastiera alla ricerca del note del piccolo Montanaro, oggi mi vede gualcire con le dita adulte e nervose un fazzolettino di batista umido di pianto. Fuori la gente è felice. Dalla finestra vedo una lunga fila di macchine che mi ricorda le nostre tranquille passeggiate in occasione dei weekend. Io penso che il weekend è un sabato e una domenica che hanno frequentato un corso d'inglese. E penso anche che sei un imbecillotto, Eleuterio. Non si scatena una lite familiare per un insistente bussare alla porta di casa. Sempre tua. Roma Parioli, 22 gennaio 1970. Cara sempre mia, mi dispiace che la casa che oggi vede le tue dita adulte e nervose gualcire il fazzolettino non possa vedere le mie di dita adulte, nervosissime e forti, che continuano il movimento di chi, preso da piacevole ira, stringe con assoluta serenità una ipotetica carotide. Essendo mie le dita che compiono il movimento, ovviamente l'ipotetica carotide è la tua. E peccato che sia solo ipotetica. Sarò un imbecillotto, come dici tu, se litigo per un insistente bussare alla porta di casa, ma ti ricordo che il bussare insistente alla porta suddetta fu provocato dalla mia fronte spaziosa, ora spaziosa e tumefatta, a causa di una perdita di equilibrio determinata da una delle tue gambe poste di traversa alla mia in movimento marciante. Ciao! Ho scritto: se tuo padre, anziché incontrare la tua cosiddetta madre, avesse incontrato il generale La Marmora, forse oggi lui sarebbe un eroe, forse, ma io sicuramente sarei scapolo. Eleuterio. Roma Trastevere, 23 gennaio 1970. Caro Eleuterio, sorianoide. Siamo sempre nel campo del gatto, ma un po' ai margini della sorianeria e in senso di distacco da parte mia. Mammina in cucina sta tirando il collo a due pollastri che le hanno regalato e chissà perché li chiama voluttuosamente Eleuterio durante l'uccidimento. Forse è meglio uccisione, sì. Zio Giuseppe, il fratello di Mammina, quello che tu dici che è sua sorella perché il fratello è Mammina, è tornato dalla Scozia e ha portato una bella zampogna in ricordo. E io penso che la zampogna non è altro che un'otre piena d'aria e di velleità musicali. Scusami se ti ho mandato a sbattere con la fronte contro la porta di casa, non era mia intenzione, ma ho sbagliato il calcolo e, angolando male il cianchettone, ho mancato la specchiera. Sempre tua. Roma Parioli, 24 gennaio 1970. Inevitabile sempre mia. La solitudine mi pesa. Non sentirti cantare la sera mentre spicci la cucina mi dà malinconia. Ho provato a sostituire i tuoi gorgheggi, vuoi con lo sciacquone, vuoi riempiendo il lavello e scaricandolo di colpo, ma in ambedue i casi ho ottenuto suoni troppo vicini alla musicalità. Torna, anche perché i pesci rossi sono diventati improvvisamente blu notte. Ciao. Ho scritto: la portinaia ha cambiato l'acqua ai pesci, che sono tornati ad essere rossi. E io ho ritrovato la cartuccia della mia penna stilografica. Vuota. Eleuterio. Roma Parioli, 25 gennaio 1970. Caro Eleuterio, micione! Eccomi di nuovo qui, il che vuol dire che non sono più là. Vale a dire che tutto è tornato come prima, della nostra lite. Quando c'è, ero qui prima di andare là. La nostra casa fa un altro effetto senza i sacchetti della spazzatura in fila sulla cassapanca in ingresso. Ho trovato sulla console la partecipazione ai confetti della figlia della portinaia. E io penso che i confetti sono solo mandorle da aperitivo vestite da sposa. Quando rientrerai, Eleuterio, sarà come tutti gli altri giorni. Non starò a rimbangare perché abbiamo litigato, anche se ricordo tutto perfettamente. Mancava un po' all'ora di cena e tu eri andato verso il tuo studio. Accidentaccio! Ma perché non si accende la luce nel mio studio? Eleuterio, non gridare! Caffone! Se la luce non si accende, ci sarà un valido motivo, no? E qual è il valido motivo? Eh? Qual è? Non si accende perché si è fulminata la lampadina in cucina. E da quando in qua si fulmina la lampadina in cucina e non si accende la lampadina in studio? Da quando ho dovuto togliere la lampadina dallo studio per sostituire quella della cucina. Ma le lampadine di riserva non ci sono? Sei un cretino, Eleuterio. Sei un cretino perché fai discorsi insensati. Le riserve si esauriscono col tempo e quando si sono esaurite cessano di esistere. E tu per vederci in cucina mi freghi la lampadina in studio? Modera i termini, Eleuterio. Io non... Come dici tu? Io, dato che sono sulla proprietà comune, prendo in prestito. E non lo devi fare. Io ho bisogno di luce, rimedia subito una lampadina, prendila in soggiorno e mettila in studio. Le lampadine del soggiorno le ho già prese tutte e tre. Una per la stanza da letto, una per l'ingresso e una per il salotto. A suo tempo, quando si fulminarono quella del salotto, quella del soggiorno e quella della camera da letto, sì. Io vorrei sapere che cosa ho fatto di male. Io mi sono visto tutte le puntate di Canzonissima senza reagire. Ho nonostante tutto rinnovato l'abbonamento. Pago la tassa di circolazione, giro a piedi per via del traffico. Chiamo dottore il capufficio. Cosa deve fare di più un povero italiano per meritare la tranquillità? Perché punirmi con una moglie di questo genere, figlia di una madre inaccettabile del genere di sua madre? Lascia stare, mammina. Lei con la luce non c'entra. C'entra, invece. Perché invece di fare come suo dovere il traliccio in montagna, è scesa a valle. E questo provoca gli sbalzi di tensione che fanno fulminare le lampadine. Voglio una lampadina! Ridarmi quella che hai messo in cucina! In cucina ho la candela, Eleuterio. La lampadina di cucina che prima era del tuo studio, ieri si è fulminata anche lei. C'è rimasta quella della stanza da letto, che per il momento ho sistemato in sala da pranzo, se no non ci vediamo a mangiare, no? Accidentaccio, anche una casa di 5 stanze non può avere una sola lampadina. Le lampadine si comprano quando si fulminano, chiaro? E io non posso comprare ogni giorno lampadine, fai rivedere l'impianto. Dice il portinaio che ci vuole uno stabilizzatore. E che cos'è uno stabilizzatore? Non lo so, ma deve essere un aggeggio infernale da applicare da qualche parte. Un aggeggio infernale? Allora ce l'abbiamo. Telefona a tua madre che venga qua. La colleghiamo tramite baffi al contatore centrale e vedrai che tutto torna a posto. Eleuterio, lascia stare mia madre! E tu lascia stare la lampadina del mio studio, anzi, va subito a comprarmi 10 lampadine. Ora non posso, devo preparare la cena. E quella scatoletta di carne in conserva, tu la chiami cena? Vai a comprare le lampadine! Eleuterio, stai calmo. Metti giù quella cassapanca! Vai a comprare lampadine! No. Vai a comprare tante lampadine, altrimenti io spacco... Aiuto! Eleuterio, non fare così, Eleuterio. Non mi seguire, Eleuterio. No, Eleuterio, ti prego! Non costringermi a tornare da mia madre! O compri le lampadine o ti trasformo in cara Salma! No, fermo, fermo! La testa! Accidenti! In che diavolaccio ho inciampato? Sei un brutto a costringere una povera donna a ricorrere allo sgambetto per non soccombere! Meglio tornare da bambina! Ricordo tutto perfettamente, Eleuterio. Ma quando rientrerai, io ti sorriderò come sempre, come se niente fosse accaduto tra noi, perché io dimentico Eleuterio. Ciao. Ciao. Tra poco si mangia. Bene. Intanto mi vado a cambiare. Accidenti, ma perché non si accende la luce in camera da letto? Perché non c'è la lampadina, Eleuterio. L'ho dovuta mettere in bagno perché quella del bagno, che poi era quella del salotto, si è fulminata stamattina.